Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Camusso a Renzi, abbassi i manganelli, incontro a Palazzo Chigi questa mattina con i lavoratori dell'AST di Terni. Dopo gli scontri di ieri sono complessivamente 170 le vertenze aperte. De Magistris torna sindaco, legge Severino, e il TAR ha rinviato gli atti alla Consulta. Nuove tensioni tra Mosca e l'Europa dopo che jet russi hanno sorvolato i cieli del vecchio continente. La Francia annuncia che non ci sono le condizioni per la consegna di una nave militare alla Russia. Giulio Tremonti sarebbe indagato per corruzione nell'inchiesta su Finmeccanica. Il suo studio avrebbe ricevuto 2,5 milioni mentre era ministro. In Africa, il Burkina Faso è nel caos, i manifestanti assaltano la TV di Stato e danno fuoco al Parlamento. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, come sempre se volete potete commentare via sms al 349-238-6666 oppure scriverci effettogiorno@radio24.it, c'è anche la nostra pagina Facebook. Prima di iniziare dalle vicende strettamente italiane che riguardano gli scontri di ieri, c'è un aggiornamento che arriva, una notizia che viene battuta dalle agenzie, è stata battuta dalle agenzie pochi istanti fa e riguarda un nuovo naufragio nel canale di Sicilia. Ci sono almeno 20 dispersi a largo della Libia per il naufragio di un gommone diretto verso l'Italia. A dare l'allarme sono stati altri 93 migranti che sono stati tratti in salvo dalla Guardia Costiera, che hanno riferito che sul gommone erano in 113. L'equipaggio della nave Fiorillo della Guardia Costiera è impegnata nelle ricerche dei dispersi. Naturalmente maggiori aggiornamenti appena ne avremo. Intanto apriamo andando agli scontri di ieri al corteo degli operai delle acciaierie speciali Terni. In diretta Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno Simone. All'indomani degli scontri di Piazza Indipendenza a Roma c'è da dire che i rapporti, soprattutto fra governo e sindacati, restano piuttosto tesi. Stamattina c'è stato un nuovo affondo di Susanna Camusso. Il presidente del Consiglio Renzi dovrebbe provare ad abbassare i manganelli dell'ordine pubblico, ha attaccato la leader della CGIL. C'è da dire che proprio nel tentativo di stemperare le tensioni, stamattina Renzi ha deciso di incontrare a Palazzo Chigi le rappresentanze sindacali della AST di Terni che ieri erano in piazza a Roma. Sugli scontri faremo verifiche e poi gli atti saranno conseguenti, ha assicurato loro il Premier. Quella di ieri è stata una pagina negativa che non deve più ripetersi, ha invece commentato al termine di questo incontro il numero uno della FIOM Landini. Sentiamo le sue parole. Con noi abbiamo ribadito, avendo l'occasione oggi di poter con i ministri ma anche col primo ministro del governo chiarire che ciò che è avvenuto ieri non deve più ripetersi, noi ci auguriamo che nelle prossime ore tutti gli atti che vanno in questa direzione che il governo dovrà fare siano finalizzati a questo chiarimento. Tra un attimo andremo agli esiti di questo incontro dal punto di vista dell'avvertenza appunto per le acciaierie speciali Terni. Intanto restiamo sull'ordine pubblico con l'analisi di Daniele Biacchessi. A distanza di un giorno resta ancora incerta e poco chiara la dinamica degli scontri di ieri a Roma tra forze dell'ordine e operai della AST. Le foto e i video disponibili dimostrano una reazione eccessiva degli agenti intervenuti in Piazza Indipendenza contro una manifestazione pacifica autorizzata di lavoratori. Lo stesso Viminale ha dovuto ammettere di aver frainteso le intenzioni dei manifestanti che non intendevano occupare la stazione Termini, come raccontato inizialmente dalla Questura di Roma. E il Premier Renzi avrebbe pressato, nella serata di ieri, il ministro Alfano perché accerti subito le responsabilità. Gli investigatori responsabili dell'inchiesta hanno fatto filtrare oggi la notizia della presenza di esponenti di centri sociali romani dei movimenti per la casa a fianco della FIOM e degli operai, ma dalle testimonianze raccolte dai video non sarebbero visibili queste infiltrazioni. Nel pomeriggio comunque Alfano riferirà alle Camere, ma due cose sono ormai certe. Dell'utilizzo dei manganelli, come ai tempi di Scelba e Tambroni, avremmo fatto sinceramente a meno. In un clima di altissimo scontro sociale, alle forze dell'ordine oggi spetta il compito di isolare e colpire i violenti, ma anche di distinguere le proteste dei lavoratori con gli ultras degli stadi. Come si diceva, oggi è ripresa la trattativa alla presenza anche del presidente del Consiglio Matteo Renzi. Che cosa è emerso? Lo chiediamo ad Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì, appunto Simone, dopo gli scontri di ieri il governo è sempre più impegnato sulla vicenda AST, il premier Matteo Renzi spiega che portare a casa la vicenda Terni è un imperativo morale, il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi ha rivelato che l'azienda è disponibile a rafforzare il piano industriale, contando le mobilità volontarie circa 140, restano sul tavolo circa 150 esuberi. Perché? Perché l'azienda si sarebbe impegnata a fare al massimo 290 esuberi rispetto ai 550 iniziali. Lavoriamo, ha detto Guidi, per limitare al minimo l'impatto e attraverso anche il ribostimento, scusate, del piano per il mantenimento di entrambi i forni. Entro la prossima settimana ci sarà un nuovo tavolo con l'azienda. Una vertenza importante, la definisce il sottosegretario Graziano Del Rio, perché è importante anche dare una soluzione all'interno della politica industriale che riguarda altri siti. Per il segretario della FIOM Maurizio Landini c'è piena disponibilità del sindacato a riprendere la trattativa e di essere pronti a sederci a un tavolo. Abbiamo chiesto, dice Landino, che l'azienda confermi le cose dette dal governo. Per il momento qui da Palazzo Chigi è tutto, a te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Un fatto, quello di ieri, che rischia di sollevare nuove tensioni in una fase nella quale sono aperte molte vertenze. Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla voce Unità Gestione Vertenze vengono fuori 4 pagine di verbali di incontri con le aziende che hanno denunciato esuberi. Si va dai piccoli numeri dello stabilimento Parmalat della ex centrale del latte di Genova, ai grandi numeri delle acciaierie di Terni, gli oltre 150 dipendenti della Nokia, i circa 400 della Franco Tosi, e poi Taranto, Piombino, la Guaber di Casalecchio di Reno, la Meridiana, la TRV di Livorno e la Natuzzi, perché l'accordo che prevedeva la ripresa della produzione negli stabilimenti pugliesi stenta a trovare attuazione. Il nord paga il prezzo più alto, ma solo perché al sud la desertificazione industriale è già in corso da anni e tra i settori produttivi non se ne salva uno. Molto colpita la siderurgia, ma soffre l'informatica, la componentistica, l'elettronica. Segno che la crisi è una delle cause. Poi però ci sono le scelte strategiche e logistiche fatte dai vertici, i mancati investimenti, le razionalizzazioni. A volte le crisi sono irreversibili, altre volte le imprese scelgono la strada più semplice, la considerazione del viceministro De Vincenti. E in mezzo ci sono oltre 150.000 lavoratori che aspettano, tra loro quasi 30.000 già dichiarati in esubero. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora ci spostiamo all'estero. Iniziamo dai rapporti tra l'Europa e la Russia. La Francia decide di rinviare la consegna di una nave militare. La Francia si è infilata in un altro pasticcio dopo quello del mancato rispetto degli impegni europei sui conti pubblici e rischia di fare l'ennesima figuraccia internazionale. Ieri le autorità russe, che certo non si tirano indietro quando si può fare un po' di provocazione e creare sconcerto nelle file avversarie, hanno dichiarato di aver ricevuto una lettera della DNCS, il gruppo pubblico francese che costruisce i sistemi navali di superficie, in cui venivano invitate il 14 novembre alla consegna della prima delle 2 navi da guerra portaelicotteri Mistral, oggetto di un contratto del 2011. Notizia shock per gli alleati di Parigi, Stati Uniti in testa, perché la Francia, pur controvoglia, si era impegnata a sospendere la consegna fino alla chiusura del dossier ucraino, lungi dall'essere chiuso in realtà. Confusione, imbarazzo e mezze smentite a Parigi. A dire l'ultima parola è stato questa mattina il ministro delle finanze Michel Sapin, un fedelissimo del presidente Hollande. Non ci sono le condizioni per procedere alla consegna. Fino al prossimo pasticcio. Marco Bussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. La decisione di chiudere la spianata delle moschee è una dichiarazione di guerra da parte di Israele contro il popolo palestinese. Sono parole del presidente palestinese Abu Mazen. La spianata è stata chiusa dopo l'attentato di ieri ad un rabbino di estrema destra, le cui condizioni sono gravissime. I primi miliziani curdo-iracheni, i Peshmerga, sono entrati a Kobane, la cittadina siriana al confine con la Turchia, che è assediata dall'ISIS. Lo ha riferito l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria. Ha precisato sempre l'Osservatorio Nazionale che si tratta di un primo contingente, perché il punto di accesso è sotto il bombardamento dell'ISIS. Vedremo naturalmente come evolveranno le cose. Adesso però andiamo in Tunisia, dove sono arrivati i risultati ufficiali delle elezioni. Si conferma la vittoria dei laici, che annunciano: nonostante non abbiamo la maggioranza assoluta dei seggi, non governeremo con gli islamici. L'analisi di Alberto Negri. perché in Tunisia i laici hanno vinto e gli islamici hanno perso? I risultati definitivi delle elezioni di domenica scorsa hanno confermato una maggioranza di 85 seggi della coalizione secolarista Nida Tunes contro i rivali islamici di Ennahda, che ne hanno ottenuti 60. I laici hanno vinto perché gli islamici non sono riusciti a risolvere i problemi quotidiani dei tunisini, colpiti dalla crisi economica e da una disoccupazione che sfiora il 40%. L'Islam non è la soluzione, è il messaggio che viene dalle urne in Tunisia, o perlomeno l'Islam non può essere l'unica soluzione. La Tunisia, dove la primavera araba è cominciata, rimane l'unico paese che è riuscito, dopo la fine della dittatura, ad affrontare una transizione pacifica, nonostante la presenza di gruppi radicali e il forte reclutamento dei jihadisti per la guerra in Siria. Chi governerà allora il paese? Per avere una risposta dovremo attendere le elezioni presidenziali del 23 novembre e forse anche i laici non respingeranno l'idea di perpetuare un governo di unità nazionale con Ennahda. Per combattere gli islamici estremisti servono ancora gli islamici più moderati. Le vicende di Finmeccanica su un nuovo indagato, si tratta dell'ex ministro dell'economia. Un'indagine di natura ministeriale, un raro caso che segue però un suo percorso. Tutto parte dal fatto che Giulio Tremonti, secondo il Corriere della Sera, sarebbe indagato dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di corruzione come ministro dell'economia del quarto governo Berlusconi nel 2009 per il versamento di 2 milioni e 400 mila euro al suo studio tributarista da parte di Finmeccanica controllata dal Tesoro. In cambio sembrerebbe dell'ammorbidimento della propria iniziale contrarietà al controverso ingente acquisto per 3,4 miliardi di euro nel luglio 2008 della società statunitense DRS, fornitrice del Pentagono. La supposta tangente, si legge nel servizio, sarebbe stata veicolata dietro lo schermo di una parcella professionale liquidata da Finmeccanica a saldo di un'apparente consulenza sui profili fiscali dell'acquisizione, versata allo studio tributaristico Vitali Romagnoli Piccardi Associati, dal quale il fondatore Tremonti era formalmente uscito essendo divenuto ministro e di cui oggi è socio. Indagati anche Enrico Vitali, socio commercialista dello studio, l'ex presidente di Finmeccanica Pierfrancesco Guarguaglini e Alessandro Pansa, l'ex direttore finanziario di Finmeccanica. La natura ministeriale della corruzione ipotizzata è ora un passaggio procedurale obbligato: la trasmissione degli atti entro 15 giorni e a indagini ferme al Tribunale dei Ministri di Milano, competente sull'istruttoria entro 90 giorni. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È stato arrestato questa mattina all'alba Renzo Pini, direttore regionale del Lazio dell'Agenzia del Demanio. In un'inchiesta condotta dalla Procura di Roma sull'affidamento di un appalto, a Pini è contestato il reato di abuso d'ufficio. L'inchiesta coinvolge altre 7 persone e riguarda l'assegnazione per lo sfruttamento economico ed edilizio di un'area non lontana da Piazzale Clodio. E adesso torniamo all'estero per parlare di quello che sta succedendo in Burkina Faso, dove dimostranti antigovernativi hanno preso d'assalto la sede della TV di Stato nella capitale, poco dopo aver saccheggiato il Palazzo del Parlamento e dato fuoco al Palazzo del Parlamento. Ci colleghiamo con Alfonso Di Riso, che è l'ambasciatore italiano ad Abidjan in Costa d'Avorio, è l'ambasciata che ha la competenza anche sul Burkina Faso. Ambasciatore, buongiorno innanzitutto. Buongiorno, come sta? Bene, tutto a posto. Vorrei capire un po' qual è la situazione da quel che vi risulta naturalmente sul terreno. Vorrei capire se ci sono degli italiani in Burkina Faso, se ci sono rischi e così via. Sì, in Burkina Faso ci sono circa 200 italiani, un centinaio iscritti all'AIRE e un centinaio di presenze cosiddette temporanee. Di questi 200 circa una quarantina sono iscritti al sito Dove Siamo nel Mondo, che serve a segnalare la presenza di la propria presenza in un paese fuori dall'Italia, e siamo costantemente in contatto da qualche giorno con loro per segnalare i rischi di questo momento che attraversa il Burkina Faso, attraverso anche invio di sms e di email che danno una serie di suggerimenti, di consigli per spostamenti nel paese. Ovviamente adesso avviene in stretto contatto anche con l'unità di crisi a Roma e con gli altri paesi dell'Unione Europea che sono presenti con ambasciate sul posto. Rischi ce ne sono, le sembra, o è una questione interna, insomma, sulla quale, come dire, nel momento nel quale non ci si muove per le strade non ci sono grandi problemi? Noi il consiglio che abbiamo dato ai connazionali lì presenti è di non muoversi da casa, soprattutto nella giornata di oggi e molto probabilmente anche nelle prossime ore. Come lei sa, si è trattato di un progetto di legge che di revisione costituzionale, questo ha determinato queste manifestazioni. Ci spiega da cosa esattamente sono state determinate, cioè quali sono queste in cosa consiste questo progetto di riforma costituzionale che ha scatenato anche questa violenza? Una costituzionale che prevede un aumento del numero dei mandati che un presidente può svolgere, insomma, che passano a più, si può essere rivotati secondo il progetto nuovo due volte, mentre la precedente norma prevedeva che si poteva essere eletti una sola volta. Gli italiani, diciamo, di questi 200 che sono lì, rischi attualmente, se si osservano le prescrizioni che anche le altre ambasciate hanno inviato, non ne vedo. Non dovrebbero. Seguiamo la situazione minuto per minuto, ovviamente, anche attraverso la rappresentanza dell'Unione Europea sul posto, quindi al momento la situazione è fluida, però i contatti, le notizie sono attentamente seguite anche in attraverso comunicazioni tra le varie unità di crisi dei paesi europei presenti lì. Nuovo naufragio nel canale di Sicilia, almeno 20 migranti dispersi al largo della Libia, a bordo del gommone ce ne sarebbero stati 113. Camusso a Renzi, a Bassi Manganelli, incontro a Palazzo Chigi con i lavoratori dell'asta di Terni dopo gli scontri di ieri e parziali schiarite. Nuove tensioni tra Mosca e l'Europa dopo che jet russi hanno sorvolato i cieli europei. La Francia annuncia che non ci sono le condizioni per la consegna di una nave militare alla Russia. De Magistris torna sindaco, aveva sollevato una questione di costituzionalità sulla legge Severino e il TAR rinvia gli atti alla consulta. Carlo Genta, ciao, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti. Allora, di nuovo pari Juve Roma. Nuovo pari, si ricomincia da capo perché la Juventus perde all'ultimo minuto nel tempo di recupero a Genova con il gol di un peone, cioè di Antonini, e non certamente una bella Juventus, anche i risultati ora cominciano a dire che dopo la partita con la Roma, con tutta quella coda polemica, la Juventus ha vinto soltanto domenica scorsa in casa col Palermo, poi due sconfitte, una ad Atene e l'altra appunto a Genova e un pari a Reggio Emilia con il Sassuolo. La Roma batte invece 2-0 il Cesena con i gol di Destro all'inizio e di De Rossi verso la fine e quindi c'è il riaggancio, 22 pari in classifica. Per il resto il Napoli non riesce a vincere a Bergamo, spreca molto, anche un rigore con Higuain. Il Milan fa lo stesso risultato, cioè 1-1 con il Cagliari. L'Inter vince di nuovo su rigore per la seconda volta consecutiva, di nuovo con un gol di Icardi. Tre punti importanti in classifica perché l'Inter è appaiato ora a Napoli e alla Lazio, che giocherà stasera, nonché al Genoa, è a ridosso del terzo posto, un solo punto in meno di Udinese, Milan e Sampdoria, però sul piano del gioco ancora non convince, i tifosi ancora non sono contenti, ancora contestano Mazzarri. Insomma, la partita con la Sampdoria non ha risolto i macro problemi dell'Inter, Simone. Grazie Carlo, tutto materiale per tutti i convocati a partire dalle 14. Cambiamo decisamente argomenti. Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico. Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. C'è qualcuno secondo lei che ha interesse ad alzare la tensione in questa fase? Perché si sono lette dichiarazioni un po' forti, no? Da una parte, per esempio, qualcuno della minoranza del vostro partito, come Zoggia, che collega le manganellate di ieri all'intervento di Davide Serra alla Leopolda. Qualcun altro, come la Camusso, che si rivolge direttamente al governo e dice abbassate i manganelli. Devo dire, ho trovato ambedue le dichiarazioni piuttosto discutibili e sbagliate, perché noi ieri abbiamo obiettivamente, per responsabilità di tutti, vissuto una giornata molto brutta e molto sgradevole che non si deve ripetere. Oggi credo sia dovere di chi ha un minimo di senso di responsabilità abbassare i toni e lavorare per ripristinare le condizioni di un rapporto civile. Mi sembra che ci sia chi ha lavorato in questa direzione. Penso sia stata importante la scelta del Presidente del Consiglio di andare al tavolo a Palazzo Chigi convocato sulla vertenza di Terni, credo sia stato positivo l'atteggiamento dei sindacati a quel tavolo di trattativa, ho apprezzato le parole di Landini che ha riconosciuto che si è fatto un passo avanti, che ha chiesto che non si ripeta una gestione dell'ordine pubblico assurda come quella che c'è stata ieri a Roma, però non ha chiesto le dimissioni del Ministro. Insomma, mi sembra che c'è una parte appunto della politica e del sindacato, che oggi ha lavorato per abbassare i toni e per ripristinare una condizione accettabile di dialogo. A suo giudizio, insomma, vedendo anche le immagini di quello che è successo ieri, poi oggi naturalmente sentiremo il ministro Alfano che riferirà in Parlamento alle 14.30 14.45, l'orario più o meno è quello, a suo giudizio deve saltare qualche testa, perché non è il primo caso nel quale la gestione dell'ordine pubblico a Roma è oggettivamente, se non carente, quantomeno discutibile. Ma questo non lo so, appunto, ascolteremo Alfano e poi valuteremo la posizione da assumere. Mi sembra evidente che però ci deve essere il riconoscimento di un errore e di una difficoltà di gestione dell'ordine pubblico, cioè non si deve difendere ciò che è successo ieri, perché non si possono considerare i lavoratori come dei black bloc. Bisogna avere anche consapevolezza della drammaticità della situazione che vivono quei lavoratori, e una situazione come quella va gestita in modo molto diverso da come le forze dell'ordine hanno utilizzato. Complessivamente i rapporti con la CGIL sono andati discretamente in tensione, soprattutto nell'ultimo paio di giorni, mi sembra. Ho visto una serie di dichiarazioni, c'è quella dell'eurodeputata Pina Piscierno, che è stata, come dire, particolarmente pesante, per così dire. Secondo lei ha ecceduto? Secondo me ha detto delle parole sbagliate e rozze, e che un parlamentare del Partito Democratico non deve pronunciare. Credo sia stato un grave errore reagire così a delle parole sbagliate della Camusso, perché anche la Camusso aveva fatto delle dichiarazioni piuttosto discutibili. Ora, credo che noi non dobbiamo spaventarci se Partito Democratico e CGIL non sono d'accordo su alcune questioni. Nella storia della sinistra italiana in questi anni ci sono stati molti momenti di divisione tra partito e sindacato, penso ai tempi di Cufferati, del segretario della CGIL, della CGIL schierata nel congresso degli allora DS contro Fassino, e anche su vertenze o questioni specifiche non è la prima volta. Noi dobbiamo vivere positivamente l'autonomia che ci deve essere tra partiti e sindacati, tra politica e sindacati. Su questo ha perfettamente ragione Landini, che ha festeggiato la fine della concertazione, dicendo che la concertazione ha fatto in questi anni male alla politica e male ai sindacati, che hanno perso autonomia. L'importante è non far venire meno il rispetto reciproco, cioè se io vedo la Camusso che dice che il governo Renzi è come la Thatcher, o che fa politica di destra, o appunto dice dobbiamo abbassare i manganelli o frasi di questo tipo, penso che non si aiuti un confronto nel merito, che invece ci può essere. Orfini, brevemente, la minoranza del suo partito rischia di far cadere il governo sul Jobs Act, avverrà oppure no? Ma io credo e spero di no, non penso si arriverà a uno scenario di questo tipo. In un partito ci si sta rispettando, non votare la fiducia a un governo presieduto dal segretario del tuo partito sarebbe una scelta molto difficile da spiegare agli elettori del Partito Democratico. Quindi io credo che si debba lavorare per trovare una sintesi e un accordo positivo, per fare un passo avanti tutti insieme, ma che poi le decisioni che si assumono nei gruppi e nel partito debbano essere rispettate da tutti. Grazie Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico, le auguro buona giornata e saluto il generale Leonardo Tricarico, presidente della Fondazione ICSA, Intelligence, Culture and Strategic Analysis. Buongiorno generale Tricarico. Buongiorno a voi. Bentornato ai nostri microfoni, tra l'altro ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, consigliere militare a Palazzo Chigi per 3 governi. Con lei vogliamo parlare di una vicenda che è avvenuta ieri e che ci viene riassunta in questo servizio. Resta alto l'allerta al quartier generale della NATO dopo che nei giorni scorsi 4 gruppi di bombardieri russi sono stati intercettati mentre lambivano i confini europei. I velivoli di Mosca sono rimasti nello spazio aereo internazionale, ma hanno mantenuto il silenzio radio, creando così una potenziale minaccia per il traffico aereo civile. Oggi non è ancora stata rilevata alcuna attività anomala, ma nel tardo pomeriggio di ieri la tensione ha portato gli aerei militari inglesi a scambiare un cargo civile della Latvia che volava sul Kent per un velivolo sospetto, costringendolo ad atterrare. Intanto l'ENAV assicura che le manovre degli aerei russi rilevate dalla NATO si sono concentrate sui confini nord-occidentali dell'Europa e non hanno interessato lo spazio aereo italiano. Non è la prima volta che i bombardieri di Mosca sorvolano i cieli della NATO. Questa volta però fa più impressione perché lo sfoggio di potenza dell'aeronautica russa avviene in un momento in cui le elezioni in Ucraina e il tentativo di trovare un'intesa sul gas fra Kiev e Mosca sono al centro dell'agenda diplomatica europea. Nicola Scevola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Generale Tricarico, cosa rappresenta questo passaggio dei jet russi sui cieli europei? È qualcosa che, la dico molto brutalmente e semplicemente, ci deve spaventare? No, credo proprio, sono certo di no. È un'esibizione muscolare, come lasciava intendere anche il servizio, auspicabilmente fino a se stessa, diciamo, o nella peggiore delle ipotesi, speriamo di no, mirata a creare un incidente. Però anche se incidente ci dovesse essere, ecco, vorrei ricordare che, diciamo, le regole d'ingaggio della NATO che sorvegliano quei cieli sono da questo punto di vista estremamente prudenziali, cioè il concetto è che si abbatte un velivolo solamente o per autodifesa o se inequivocabilmente sta, ha un'intenzione ostile, quindi pare che ci sia più che altro un'intenzione provocatoria e la volontà, insomma, di mostrare una predominanza, un predominio, diciamo, dei cieli che è anche molto evidente, molto platealmente. Ma provocatoria mirata a provocare cosa, generale, secondo lei? Ma provocare una reazione, ecco, sapendo che la competenza a difendere i cieli è della NATO e quindi a mantenere alta la tensione, insomma, è uno scenario da guerra fredda, la confrontazione nella guerra fredda sono scenari tipici. Ecco, singolare, mi parrebbe questo un punto da sottolineare, singolare e meritevole del più ampio biasimo, secondo me, è che la NATO ancora, diciamo, si lasci intrappolare in questi teatrini. Quando noi paesi del sud sono 30 anni circa, forse un po' di meno, ma insomma questo è l'ordine di grandezza, che cerchiamo di far volgere alla NATO lo sguardo a sud, dove veramente si stanno perpetrando le vere tragedie e non dei teatrini da guerra fredda come quelli in cui stiamo assistendo, insomma, nei cieli del nord. Cosa intende? Intendo che il pericolo è al sud, noi stiamo cercando di dirlo al fronte sud della NATO, naturalmente, stiamo cercando di convincere la NATO all'interno dei consessi propri dove si discute di queste cose, però evidentemente non c'è un'attrazione e una concentrazione di attenzione verso sud. C'è un po' una svogliatezza generale nel considerare un terrorismo che si sta facendo stato, un terrorismo che sta dilagando, sta riempendo tutti i vuoti diciamo, di strutturazione statuale, dove c'è una fragilità inequivocabilmente entra il terrorismo, e noi stiamo assistendo così, biasimando soltanto quello che succede, analizzando, ma con una volontà di fronteggiare questo fenomeno molto prossimo a zero. E apriamo con una notizia che arriva dagli Stati Uniti ed è una buona notizia per l'economia americana, perché il PIL americano è cresciuto il terzo trimestre di quest'anno del 3,5%, più delle attese. Nel secondo trimestre la crescita era stata del 4,2%. Economia americana che continua a correre. Economia italiana che soffre. Ritorniamo dunque sulle acciaierie speciali Terni. Saluto Leopoldo Di Girolamo, che è il sindaco di Terni. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, al di là di delle valutazioni che poi arriveranno, l'abbiamo detto anche prima, da parte del ministro Alfano, sentiremo come sono andate effettivamente le cose ieri. Questa mattina mi sembra che ci sia stato anche una sorta di avanzamento per quanto riguarda la trattativa. Contando le mobilità volontarie, che sono circa 140, restano sul tavolo tra i 140 e i 150 esuberi. Mi sembra che progressivamente si vada verso una schiarita, no? Beh, oddio, insomma, io direi ancora no, siamo ancora nel campo delle iniziative che l'amministratrice delegata Morselli assume autonomamente senza la presenza di alcuna intesa complessiva, quindi c'è il favorire la mobilità volontaria dei lavoratori attraverso un incentivo economico, ma non ci sono affatto nei termini di sicurezza riguardo al piano industriale nei numeri su cui attestarsi con questo incentivo volontario, quindi diciamo non siamo affatto ancora alle schiarite, purtroppo. Come giudica i fatti di ieri, sindaco? Ma io li giudico con grande preoccupazione, in quanto, come forse lei ricorda, io stesso un anno fa ebbi conseguenze personali da scontri e incidenti che ci furono nella mia città, e penso che anche ieri vi sia stato un eccesso, un comportamento assolutamente sopra le righe da parte di chi governava l'ordine pubblico. Qui a Terni abbiamo avuto recentemente episodi che potevano anche causare disordini, cortei con 30.000 persone, abbiamo avuto un assedio di una nottata intera alla palazzina degli uffici nella quale era presente l'amministratrice delegata, la stessa che si è presentata di notte alle 1:30 ai lavoratori che facevano il picchettaggio della fabbrica, e non è successo niente perché qui chi governava le forze dell'ordine ha avuto l'intelligenza, la sensibilità e la professionalità per gestire sempre queste vicende, oltre al senso di responsabilità dei lavoratori. Ieri c'è stato, secondo me, un trattamento quasi da black bloc che non corrisponde assolutamente a quello che era il senso di quello che i lavoratori volevano fare. Grazie Leopoldo Di Girolamo, sindaco di Terni, e saluto Erasmo D'Angelis, che è il capo unità di missione di Palazzo Chigi Italia Sicura, quella che si occupa del dissesto idrogeologico. Buongiorno D'Angelis, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, da lei torneremo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, perché vogliamo tenere d'occhio tutto questo, ci siamo occupati tantissimo di Genova e continueremo a farlo. E però, dato che abbiamo solamente un minuto e mezzo, certo, la voglio sollecitare su questa frase che abbiamo letto. Il titolo è: D'Angelis dice via la gente dalle aree a rischio idrogeologico, costa di meno che pagare i danni. Tante situazioni sì, per il semplice motivo che noi abbiamo in Italia, in diverse regioni, località ad esempio denominate la frana, vie chiamate appunto la frana, sono zone dove, ma per fare soltanto un esempio, dove che franano puntualmente un paio di volte l'anno, dove si interviene per riparare e per, diciamo, ricostruire strade e anche qualche edificio, dove vivono non, diciamo, migliaia di persone, ma qualche decina di famiglie, e quindi lì, diciamo, costerebbe di meno, ovviamente di più all'inizio, ma costerebbe di meno a tutti delocalizzare, finalmente abbiamo una norma per delocalizzare, e continuare, diciamo, a riparare i danni. Ma questa è una, è uno degli strumenti che dobbiamo adottare, perché D'Angelis, avete una stima di quante persone vivano in luoghi talmente a rischio da preferire questa soluzione a riparare il dissesto? Ma diciamo, le mappe di rischio nazionale dimostrano che circa il 10% del territorio nazionale è a rischio frane o alluvione, dove vivono mediamente intorno ai 6 milioni di abitanti, quindi parliamo anche di città importanti, parliamo di quasi tutte le città metropolitane, le 14 città metropolitane italiane hanno aree, diciamo, a rischio. Pensiamo, insomma, per dire a Roma, Roma Nord, non a caso le zone che si allagano più facilmente si chiamano Bagno, Bagnoletto, Sette Bagni, Pantano, cioè sono zone i cui i toponimi richiamano quello che esatto. Avviene regolarmente. Noi dobbiamo adesso insomma presenteremo l'11 di novembre un piano nazionale di prevenzione, ma dobbiamo abituarci insomma a lavorare come hanno fatto i giapponesi con i terremoti, cioè convivendo con questo rischio ma avendo anche la possibilità di difendere. Allora